John Forbes Nash nacque a Bluefield, città del West Virginia, che deve il suo nome ai campi di lino e di cicoria azzurra, e nacque nel 1928. Appena grande fu mandato a Pittsburgh per diventare un ingegnere chimico, ma si scoprì ben presto più interessato alla matematica. Finì quindi a Princeton nel 1948, dove discusse con Einstein, von Neumann e altri geni. Lì iniziò ad attingere alle proprie risorse di matematico, fornendo contributi importanti nel campo della teoria dei giochi e delle applicazioni in campo economico. Una mattina del 1959, Nash entrò nella sala professori del Tempio della Scienza statunitense, il famoso MIT, e rivelò la sensazionale scoperta che aveva appena effettuato. Sventolò il New York Times e disse che l'articolo in prima pagina, quello in alto a sinistra, conteneva un messaggio cifrato inviato dagli abitanti di un'altra galassia e che lui solo, era in grado di decifrarlo. Da quel giorno in avanti continuò a delirare, riducendosi a rottame umano abbandonato per strada e affidato al buon cuore della gente. Sul finire degli anni Ottanta, trent'anni dopo, tuttavia, accadde qualcosa. Un collega che ne sapeva l'antica fama di genio della matematica lo incontrò e rimase stupito del fatto che Nash tornasse a parlargli e a parlargli di qualcosa letto sul quotidiano del giorno stesso. Nel 1990 Nash iniziò una corrispondenza per posta elettronica con il matematico Enrico Bombieri e ricominciò a rifrequentare le aule dell'università. Nel 1994, con le dovute cautele, gli venne comunicato che aveva vinto il premio Nobel per l'economia. Dalla curata biografia che gli dedica Sylvia Nasar, il genio dei numeri si chiama questa biografia ed è uscita da Rizzoli quest'anno, scaturisce un'infanzia blandamente infelice, priva di amicizie, nonché l'ossessione dei suoi genitori perché il figlio acquisisse buone maniere e una cristallina educazione. Da questo quadro, a mio avviso, si evidenziano la sua passione per la costruzione di trappole per topi, per il maltrattamento degli animali, il tentativo, per fortuna non andato a buon fine, di trasformare la sedia ad ondolo della sorella in una sedia elettrica, e soprattutto il fatto che Nash avesse una certa tendenza a usare la mano sinistra, imbattendosi allora nella ferrea determinazione correttiva del padre che per i compiti nobili esigeva l'uso della sola mano destra. Nel primo numero dei dossier delle scienze, che è dedicato all'intelligenza, la psicologa Helen Winner si occupa dei talenti non comuni, ovvero di quei bambini prodigiosi e sapienti. Fa notare come in questi individui la dotazione di talenti non sia mai uniformemente distribuita. Edison, tanto per esempio, pagava la sua morbosa passione per l'esperimento scientifico con notevoli difficoltà di apprendimento, soprattutto nelle aree verbali, che erano menomate quasi fino alla dislessia. La Winner ricorda anche storie atroci, come quella dei due gemelli americani, Charles e George, nati nel 39, specialisti in calcoli calendariali. Si chiede loro che giorno della settimana fosse il 4 luglio del 1776 o il 6 ottobre del 2023 e la risposta è immediata. In avanti Charles arriva sino al 2400, George fino al 7000 e all'indietro sembrano in grado di arrivare sino a 6000 anni, superando anche la difficoltà della riforma gregoriana del calendario giuliano. Peccato che quasi tutto il resto, quello che servirebbe loro per una vita meno amara, invece o non arrivi o arrivi in grave ritardo. Il quoziente intellettivo che venne loro appioppato era compreso tra il 40 e il 70. Un'altra storia atroce è quella di William James Sidis, che a soli 46 anni morì per un'emorragia cerebrale dopo aver imparato a leggere all'età di 2 anni. dopo aver inventato una nuova tavola logaritmica a 8 anni, dopo essersi iscritto alla Harvard University a 11 anni, dopo essersi laureato a 16 anni, dopo essersi nauseato della propria vita e della propria famiglia e infine dopo aver dedicato il meglio del sé che gli rimaneva all'unica opera che poi gli riuscì di portare a termine, un ponderoso volume sulla classificazione dei trolli dei tram. Di quegli stessi trolley che se ne avesse avuto uno mio nonno, come dicevano a Milano molti anni fa, sarebbe stato un tram. Beh, nel tentativo di spiegare almeno parzialmente questi fenomeni, la Winner riferisce di alcuni risultati ottenuti grazie alle più recenti tecniche ispettive sul cervello. Si viene perciò a sapere che il linguaggio dei talenti matematici, un po' come quello dei talenti musicali, risulta controllato da entrambi gli emisferi cerebrali. Che vuol dire che il lato destro del cervello svolge un compito solitamente riservato al sinistro. Fra costoro dunque va da sé che si incontri un numero elevatissimo di soggetti non destrimani, cioè mancini o ambidestri, e che presentano alcuni deficit in forma di balbuzie o di dislessie nelle prestazioni solitamente svolte dall'emisfero sinistro, cioè quello più propriamente delle attività linguistiche. Ipoteticamente, i neuroscienziati di oggi riconducono questa non auspicabile sovrapposizione di compiti ad un eccesso di testosterone piovuto sul cervello fetale in via di sviluppo. E questo spiegherebbe anche perché talenti matematici, mancinismo, ambidestrismo e patologie del linguaggio si riscontrino più spesso nei maschi che nelle femmine. E non solo. Dal momento che l'eccesso di testosterone sembrerebbe inibire l'attività del timo, ghiandola fondamentale per la regolazione del sistema immunitario, si avrebbe finalmente una spiegazione del perché questa tipologia di persone soffre più di altre di asma e di allergie varie. Sul perché dell'eccesso di testosterone invece non ci viene detto alcunché, forse voglio sperare per non incentivare la produzione di talenti da parte di genitori senza scrupoli o troppo ambiziosi, due definizioni che spesso sono ahimè interscambiabili. Lucio Russo, in quel bel libretto dedicato alla nostra scuola che è Segmenti e Bastoncini, nota come in paesi industrialmente avanzati, quali il Giappone e gli Stati Uniti, da tempo si incoraggi la costruzione di bambini prodigio, in risposta alla dequalificazione della scuola. Le classi agiate, insomma, ormai mirerebbero alla perpetuazione del loro potere, evitando ai loro rampolli la scuola di massa, che ormai sarebbe ridotta a mero avviamento al consumo nel tripudio del libero mercato. Russo registra tuttavia alcuni fenomeni sui quali vale la pena riflettere. Questi geni che passano direttamente dalla culla all'università sono per lo più strani, dice lui, ignoranti, pieni di problemi psicologici, e almeno in Giappone mostrerebbero una tragica tendenza al suicidio. Il talento speciale, soprattutto se è tanto speciale da non permettere di andare al di là del proprio naso, non fa felici. Del testosterone si sa che è fondamentale nella sessualità e che se ce n'è poco va male, se ce n'è troppo va peggio. Sono stati fatti degli esperimenti per comprendere come gli animali evidenzino il proprio stato gerarchico. Per esempio, si sa che fra le cince allegre, quelle che hanno una banda nera più ampia disegnata sul petto riscuotono più successi nell'accoppiamento e nella difesa del territorio di quelle cince allegre che invece possono vantare una banda nera più ristretta. Queste ultime, nella gerarchia sociale, sono subordinate alle prime, esattamente come chi di noi, non so, va in giro con i jeans rattoppati e con una giacchetta lisa e... Per lo più, perché con la cultura umana non si sa mai, socialmente subordinato rispetto a quello che va in giro con il completino griffato. Bene, qualche etologo in vena di scherzi ha preso delle cince allegre con un petto poco decorato e con il pennarello gli ha allargato la macchia. Non l'avessero mai fatto. Una volta rimessi con gli altri, gli uccelli contraffatti e contraffattori loro malgrado hanno preso una manica di botte. In pratica, denunciati e castigati come simulatori, no? Allora gli etologi hanno provato con il testosterone. Hanno iniettato ai subordinati alte dosi di testosterone. Li hanno rimessi nella loro comunità e sono restati a vedere cosa accadeva. Gli uccelli contraffatti chimicamente aumentavano in aggressività, tanto da salire nella loro scala sociale, ma in compenso si ammalavano. Natura non facit saltus, la natura non procede per salti, diceva Linneo, ma la cultura sì, nel vuoto.